Il punto di Stefano Folli. Lo aveva detto per primo Giachetti, un parlamentare molto vicino a Renzi. Matteo, cosa aspettiamo per andare a votare? E il Presidente del Consiglio non si è fatto pregare, ha subito adombrato le elezioni anticipate se al Senato la riforma non passa, se lo stallo degli 8.000 emendamenti non viene superato nemmeno con il nuovo calendario dei lavori a tappe forzate, ogni giorno una seduta fino a mezzanotte e avanti fino a Ferragosto. Insomma, Renzi lascia intravedere l'arma letale che può esplodere su un Parlamento riottoso se non saprà accogliere l'invito giunto anche da Napolitano a superare i contrasti e a procedere con la riforma della seconda Camera. La minaccia può essere efficace o forse no, lo vedremo presto. Certo, il braccio di ferro a questo punto sembra senza alternative. Se la linea del governo è davvero quella di rifiutare qualsiasi mediazione in aula sui punti ancora controversi della riforma. E in ogni caso, da oggi saranno sempre meno quelli disposti a scommettere che questa legislatura arriverà alla scadenza naturale del 2018.